Il terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Tolto il fucile, due soldati rovesciano delicatamente il cadavere di Lazzari, voltandolo con la faccia in su. Ora si vede completamente il suo volto. La bocca è chiusa e inespressiva. Solo gli occhi semiaperti e immobili, che resistono alla luce della lanterna, sanno di morte. «In fronte?» domanda la voce di Matti, che si è subito accorto di una specie di piccola infossatura proprio sopra il naso. «Comandi?» fa Tronk senza capire. «Dico, è stato colpito in fronte?» fa Matti, seccato di dover ripetere. Tronk solleva la lanterna, illumina in pieno la faccia del Lazzari, vede anche lui la piccolissima infossatura e istintivamente avvicina un dito come per toccare. Subito però lo ritrae, turbato. «Credo di sì, signor Maggiore, qui proprio in mezzo alla fronte. Ma perché non viene a vederselo lui, il morto, se gli interessa tanto? Perché tutte quelle stupide domande?» I soldati, accorgendosi dell'imbarazzo di Tronk, badano al loro lavoro. Due sollevano il cadavere per le spalle, due per le gambe. La testa lasciata a sé, penzola indietro, orribilmente. La bocca, benché gelata dalla morte, torna quasi ad aprirsi. «Chi è stato a sparare?» domanda ancora Matti, sempre immobile nel buio. Ma in quel momento Tronk non gli bada. Tronk sta solo attento al morto. «Tenetegli sulla testa», comanda, con ira fonda, come se il morto fosse lui. Poi si accorge che il Matti ha parlato, scatta ancora sull'attenti. «Perdoni, signor Maggiore, stavo...» «Ho detto», ripete il Maggiore Matti e scandisce le parole facendo capire che se non perde la pazienza è tutto merito di quel morto. «Ho detto chi è stato a sparare». «Come si chiama? Voi lo sapete?» chiede a bassa voce Tronca ai soldati. «Martelli», dice uno. «Giovanni Martelli». «Giovanni Martelli», risponde Tronk ad alta voce. «Martelli», ripete fra sé e sé il maggiore. Quel nome non gli torna nuovo. Deve essere uno di quelli premiati alla gara di tiro. La scuola di tiro la dirige proprio il Matti e i migliori se li ricorda per nome. «È forse quello che chiamano il Moretto?» «Signor sì», risponde Tronk, immobile sull'attenti. «Credo che lo chiamino il Moretto. Sa, signor Maggiore, fra compagni...» Dice così quasi per scusarlo, quasi per dimostrare che il Martelli non ha nessuna responsabilità, che se lo chiamano il Moretto non è colpa sua e che non c'è proprio motivo di punirlo. Ma il Maggiore non pensa affatto a punirlo, non gli passa nemmeno per il cervello. «Ah, il Moretto!» esclama, senza nascondere una certa compiacenza. Il sergente maggiore lo fissa con occhi duri e capisce. Ma sì, pensa. Dagli un premio, carogna, perché ha ammazzato bene. Un magnifico centro, no?» «Un magnifico centro, sicuro. È proprio quello che il Matti sta meditando. E pensare che quando il Moretto ha sparato era già buio. In gamba, tutti i suoi tiratori. Tronk in questo momento lo odia.» «Ma sì, ma sì. Dillo forte che sei contento», pensa. «Se il Lazzari è morto, e che te ne frega? Digli bravo al tuo Moretto. Fagli un encomio solenne.» Effettivamente, così. Il maggiore, assolutamente tranquillo, se ne compiace ad alta voce. «E sì, non sbaglia il Moretto», esclama. Come per dire, è furbo il Lazzari, credeva che il Moretto non mirasse giusto, credeva di farla franca, il Lazzari, e così ha imparato che razza di tiratore era. E il Tronk? Anche lui magari sperava che il Moretto sbagliasse, tutto ci sarebbe allora aggiustato con qualche giorno di arresti. «Ah, sì, sì, sì», ripete ancora il maggiore dimenticando nel modo più assoluto che lì davanti c'è un morto. «Un tiratore scelto, il Moretto». Finalmente però egli tace, e il sergente maggiore può voltarsi a guardare come hanno disposto il cadavere sulla barella. È già disteso per bene. Sulla faccia hanno gettato una coperta da campo. Di nudo si vedono solamente le mani. Due grosse mani da contadino che sembrano ancora rosse di vita e di sangue caldo. Tronk fa un cenno con la testa e i soldati sollevano la barella. «Si può andare, signor maggiore?» domanda. «E chi vorresti aspettare?» risponde duro il Matti. Adesso, con sincero stupore, egli ha sentito l'odio di Tronk e vuol ricambiarlo moltiplicato, con in più il suo disprezzo di superiore. «Avanti!» ordina Tronk. «Avanti marcia» avrebbe dovuto dire, ma gli sembrava quasi una profanazione. Solo adesso egli guardava le mura della fortezza, la sentinella sul ciglio vagamente illuminata dai riflessi delle lanterne. Dietro quei muri, in una camerata, c'è la branda di Lazzari, la sua cassettina con le cose portate da casa, una immagine santa, due pannocchie, un acciarino, dei fazzoletti colorati, quattro bottoni d'argento per il vestito da festa che erano stati del nonno e che alla fortezza non potevano servire mai. Il cuscino forse ha ancora l'impronta della sua testa, esattamente come due giorni prima, quando egli si era svegliato. Poi c'è probabilmente anche una boccettina di inchiostro, aggiunge mentalmente Tronk, meticoloso anche nei solitari pensieri. Una boccettina di inchiostro e una penna. Tutto questo sarà messo in un pacco e spedito a casa sua, con una lettera del signor colonnello. Le altre cose, date dal governo, passeranno naturalmente ad un altro soldato, compresa la camicia di ricambio. La bella uniforme no, invece, e neppure il fucile. Il fucile e l'uniforme saranno sepolti con lui, perché questa è l'antica regola della fortezza. E al principio dell'alba videro dalla ridotta nuova sulla pianura settentrionale una piccola striscia nera. Un segno sottile che si muoveva e non poteva essere allucinazione. La vide per primo la sentinella Andronico, poi la sentinella Pietri, poi il sergente Batta che da principio si era messo a ridere, poi anche il tenente Maderna, comandante della ridotta. Una piccola striscia nera avanzava dal nord attraverso la landa disabitata e parve assurdo prodigio, benché nella notte qualche presentimento fosse andato girando per la fortezza. Alle 6 circa la sentinella Andronico mandò per primo il grido di allarme. Qualcosa si avvicinava dal settentrione, come mai era successo a memoria di uomo. Aumentando la luce, sul fondo bianco del deserto spiccò nitida la schiera umana che avanzava. Qualche minuto dopo, come faceva ogni mattina da immemorabile tempo, un giorno era stata pura speranza, poi solo scrupolo, adesso quasi unicamente abitudine, il capo sarto Prosdocimo salì a dare un'occhiata sul tetto della fortezza. Ai corpi di guardia lo lasciavano passare per tradizione. Lui si affacciava al cammino di ronda, chiacchierava un po' con il sergente di servizio, poi scendeva ancora nel suo sotterraneo. Quella mattina si affacciò dirigendo gli sguardi al triangolo visibile di deserto e credette di essere morto. non pensò che potesse essere sogno. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che tutto è falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nel sogno le cose non sono mai limpide e materiali come quella desolata pianura su cui avanzavano schiere di uomini sconosciuti. Ma era cosa tanto strana, così identica a certi suoi vaneggiamenti di quando era giovane, che Prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera, e credette di essere morto. Credette di essere morto e che Dio gli avesse perdonato. Pensò di essere nel mondo dell'aldilà, apparentemente identico al nostro, solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri e dopo essere stati soddisfatti si rimane con l'animo in pace, non come quaggiù, dove c'è sempre qualche cosa che avvelena anche le giornate migliori. Credette di essere morto, Prosdocimo, e non si muoveva, supponendo che non gli toccasse più muoversi, come defunto, ma che un arcano intervento lo avrebbe riscosso. Invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò un braccio. «Maresciallo», gli disse, «che cos'ha? Non si sente bene?» E solo allora Prosdocimo cominciò a capire. Pressa poco come nei sogni, ma meglio, scendeva dal regno del nord gente misteriosa. Il tempo rapidamente passava. Le palpebre non battevano nemmeno più, fissando l'insolita immagine. Il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte. A poco, gli stranieri si facevano più vicini, pur con grandissima lentezza. Qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo, che avanzavano in fila indiana e che c'era una bandiera. Così, diceva qualcuno, e anche gli altri si illudevano di vedere. Tutti si mettevano in mente di scorgere fanti e cavalieri, il drappo di uno stendardo, la fila indiana, benché in realtà distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva. «I tartari!» osò dire la sentinella Andronico, come per spavalda Celia, e il suo volto si era fatto bianco come la morte. Dopo mezz'ora il tenente Maderna, alla ridotta nuova, ordinò un colpo di cannone a salve. Colpo di avvertimento, come era prescritto nel caso che si vedessero avvicinare reparti stranieri armati. molti anni lassù non si era udito cannone. Le mura ebbero un piccolo fremito, lo sparo si allargò in un lento boato, funesto suono di rovina fra le rupi, e gli occhi del tenente Maderna si volsero al piatto profilo della fortezza, aspettandovi segni di agitazione. La cannonata, invece, non fece stupore, perché gli stranieri avanzavano proprio su quel triangolo di pianura visibile dal forte centrale e tutti erano già informati. Persino nel cunicolo più periferico, dove la bastionata a sinistra terminava contro le rocce, perfino al piantone che faceva la guardia al magazzino sotterraneo delle lanterne e degli attrezzi murari, a lui, che non poteva veder niente, chiuso nella fosca cantina, era giunta la notizia. E fremeva che il tempo corresse, che il suo turno terminasse, per andare anche lui sul cammino di ronda a dare un'occhiata. Tutto continuava come prima. Le sentinelle rimanevano al loro posto, camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti, facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto. Ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti, che era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie. Il camino delle cucine fumava flemmaticamente. Tre soldati spazzavano il cortile. Ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un'immensa sospensione di animi, come se l'ora grande fosse giunta e nulla più la potesse fermare. Ufficiali e soldati respirarono dal fondo l'aria del mattino per sentire dentro di sé la giovane vita. Gli artiglieri si misero a preparare i cannoni. Scherzando fra loro, ci lavoravano attorno come a bestie da tenere buone e li guardavano con una certa apprensione. Forse, dopo tanto tempo, i pezzi non erano più capaci di sparare. Forse in passato la pulizia non era stata fatta con abbastanza cura. Bisognava in un certo senso rimediare, perché fra poco tutto si sarebbe deciso. E mai i portaordini erano corsi su per le scale tanto veloci, mai uniformi così in ordine, baionette così lucenti, mai squilli di tromba così militari. Non si era dunque aspettato invano. Gli anni non erano stati sprecati. La vecchia fortezza, dopo tutto, sarebbe servita a qualche cosa. Si aspettava adesso una speciale voce di tromba, il segnale di grande allarme che i soldati non avevano mai avuto il bene di udire. Nelle loro esercitazioni, fatte fuori della fortezza, in un valloncello riposto, perché il suono non raggiungesse il forte e non succedessero malintesi, i trombettieri, durante i placidi pomeriggi di estate, avevano provato il famoso segnale, più che altro per un eccesso di zelo. Nessuno certo pensava che sarebbe potuto servire. Ora si pentivano di non averlo studiato abbastanza. Era un lunghissimo arpeggio e saliva a un estremo acuto. Qualche stonatura sarebbe probabilmente venuta fuori. Solamente il comandante della fortezza poteva ordinare il segnale e tutti pensavano a lui. I soldati già lo attendevano che venisse a ispezionare le mura da un capo all'altro. Già lo vedevano avanzare con un fiero sorriso, fissando bene tutti negli occhi. Doveva essere per lui una buona giornata. Non aveva egli speso la vita aspettando questa occasione? Thank you. Il signor colonnello Filimore stava nel suo ufficio e dalla finestra guardava verso il nord il piccolo triangolo di deserta pianura che le rupi non nascondevano. Vedeva una striscia di puntini neri che si muovevano come formiche proprio in direzione di lui, della fortezza, e sembravano veramente soldati. Ogni tanto qualche ufficiale entrava, o il tenente colonnello Nicolosi, o il capitano di ispezione, o ufficiali di servizio, con vari pretesti entravano nell'impaziente attesa dei suoi ordini, annunziandogli novità insignificanti, che dalla città era giunto un nuovo carriaggio di viveri, che si cominciavano quella mattina i lavori di riparazioni del forno, che scadeva l'epoca del congedo per una decina di soldati, che sulla terrazza del forte centrale era stato preparato il cannocchiale, semmai il signor colonnello avesse voluto approfittarne. Davano queste notizie, salutavano battendo i tacchi e non capivano perché il colonnello se ne restasse là muto senza dare i comandi che tutti aspettavano per sicuri. Non aveva fatto ancora rinforzare le guardie, né raddoppiare le scorte individuali di munizioni, né deciso il segnale di grande allarme. Quasi per misteriosa atonia, egli osservava freddamente la venuta degli stranieri, né triste né lieto, come se tutto quello non lo riguardasse. Per di più era una splendida giornata di ottobre, il sole limpido, l'aria leggera, il tempo più desiderabile per una battaglia. Il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte, la terra gialla del cortile risplendeva e i soldati passandovi vi lasciavano nitide ombre. Una bella mattina, signor colonnello. Ma il comandante faceva chiaramente capire che preferiva rimanere solo e quando non c'era più nessuno nell'ufficio andava dallo scrittoio alla finestra, dalla finestra allo scrittoio, senza saper decidersi. Si aggiustava senza motivo i baffi grigi, mandava lunghi sospiri, come proprio dei vecchi esclusivamente fisici. Oramai la striscia nera degli stranieri più non si scorgeva sul piccolo triangolo di pianura, visibile dalla finestra, segno che essi si erano fatti sotto, sempre più vicini al confine. In 3-4 ore forse sarebbero stati ai piedi delle montagne. Ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto, senza motivo, le lenti dei suoi occhiali. sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo. L'ordine del giorno da firmare, una richiesta di licenze, il modulo giornaliero dell'ufficiale medico, un buon scarico della selleria. Che cosa aspetti, signor colonnello? Il sole è già alto. Perfino il maggiore Matti, entrato poco fa, non nascondeva una certa apprensione. Perfino lui, che non crede mai a niente. Fatti vedere almeno dalle sentinelle. Un piccolo giro sulle mura. Gli stranieri, ha detto il capitano Forze, che è andato a ispezionare la ridotta nuova, si distinguono ormai uno per uno e risultano armati. Portano sulle spalle fucili. Non c'è tempo da perdere. Filimore vuole invece aspettare. Saranno soldati, quegli stranieri? Lui non nega. Ma quanti sono? Uno ha detto 200, un altro 250. Gli hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia, il grosso sarà almeno di 2000 uomini. Ma il grosso non si è ancora visto. Potrebbe darsi che non esista nemmeno. Il grosso dell'esercito non si è ancora visto, signor colonnello, solo a causa delle nebbie del nord. Questa mattina esse sono molto avanzate. La tramontana le ha spinte in giù, così che coprono una vasta zona della pianura. Quei 200 uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forte armata. Prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri. C'è anzi una sentinella che dice di aver visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it